no, vedi di nero. Questo c'è il doppio modulatore, la scheda a corte, i canali, il 45 sotto e sopra, il watt, poi cosa c'ha? Il bip, c'è un caricato, ne ha poco di roba dentro. Io qua faccio il telo, l'ho pagato così, anche Gianni, Gianni mi sbaglia ancora di più, capite? Poi io avevo, non mi ricordo chi l'avevo volato, la verità, ah, la buona mia, Gianpaolo Silvestro l'avevo volato per mettersi nella moto, ma c'era trattato poverino, e poi se ne è andato, ma quel giorno l'ha portato, io sono andato a trovarlo, ogni tanto vado. Vabbè, sono andato a trovare a Torrelai, il giorno dei Santi, a Babbo, a tutti. Ho fatto il mio sciucci, ho giocato un bel giretto, tutta la mattina ero al cimitero. Allora, questo apparecchio qua, io ti dico la verità, me l'ha dato un camionista, là. Uno che abita vicino a casa, che lavora con Nieto. Praticamente quando me l'ha dato mi ha detto, guarda, c'è un baracchino, se riesci a vendermelo. E lui ne voleva 150 euro. Allora gli ho detto, fammelo provare prima, così se trovo qualcuno te lo vendo. Io l'ho portato a casa, la verità non si sentiva. L'ho aperto, controllato, e c'era la colonnina interrotta. Gli ho cambiato la colonnina e qui c'aveva lo smitter anche che non funzionava. Quindi ho cambiato la colonnina. Ho cambiato lo switcher, l'ho messo in funzione e poi l'ho richiamato e ho detto guarda che quella radio così così, se la vuoi te la ritorno oppure paghi la riparazione, trovo... no, l'ho detto vabbè quanto la stai dando, vabbè se la vuoi dice te la prendi tu per 30 euro e te la ripari e poi te la vendi, gli ho dato 30 euro, la verità me l'ha giubilata io. Hai fatto un affare tra lì ci guadagni un sacco di soldi, se non te ne fai niente, ce l'hai messo a posto, funziona bene, ti hanno fatto sentire, è bella da 30 euro, la vendi 250, la stai vendendo a sacco baratto e te la fai fuori, ci hai guadagnato un sacco di soldi. Ma infatti, la voglio vendere, non l'ho ancora accesa, la verità, adesso la accendo e te la faccio sentire. E allora? Franco, sempre bene affari. Ti ha comprato quella radio che avevamo noi già, dalla 48 da 30 euro, ce l'ha messo a posto, gli tu vendi il giro 250, giusto per venderlo, però ce ne vale molto di più. Non lo so, la colonnina l'ho data io, non va nulla, della 48, ce l'avevo di riserva, E poi... non so cosa avesse di altro, lo smetto, mi fa... Ciao Gianni, buonasera, guarda, questa è la radio, Claudio. Via, va bene. Allora, questa radio ci aveva lo smitter, gli ho cambiato lo smitter praticamente, poi la colonnina e basta, poi non gli ho fatto altro, ho dato una pulitina e lo sto utilizzando adesso. Via, sente il bip, deve essere accolto, però ecco non è scelto, al momento appena l'ecco. Vabbè, l'ecco ne l'ho tolto io. Qua. Lo posso aumentare, diminuire, cambio. Vabbè, mi fa il buco. C'è la domanda, non mi piace, è fastidioso. La coda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non me lo ricordo già, così era, ecco qua che c'è la coda, no? Ehi, wow, ho capito, mi ricordo. Attento Gianni, se ascolti questa piccola modulazione dalla città di Sassari, Gava Gava e Gava Gava. Wow, l'ha fatto lui, ha fatto lui un elicottero, bravo a fianchi, e si appoggia. Se trovo a venderlo me lo vendo qua, tanto non ne faccio nulla e non lo uso, capito? Tutto là, c'ho l'altro pure, questo, già me ne voglio. Ma infatti basta un baracchino, no, io mettevo il garage, il resto li avevo tutti dati, e l'Elbex perché me l'aveva regalato Massimiliano, una grande ma Massimiliano, sì, uno, poi c'è quello di Pinangelo, basta, no, ne voglio più baracchini, va bene. E quindi Tartalino che devo andare a girare roba al forno, cambio? Buonasera. Ciao già, se americano che sta abbaiando deve aver sentito qualcosa. Il figlio di Chaplin. Questo va bene, vale, MB più 4, Natalie. Figlia, già va bene. Questo con cosa lo stai usando? Sempre con la lampadina o tu fra? Mappa di positivo. Ma già va bene. È una bombetta questo MB più 4 già. Ho fatto la prolunga adesso. Come il capo che c'ho io, ero villè. Io penso che a Sassari non ce l'abbia nessuno il capo come c'è lui. Cazzo di so di Baggio che ho comprato da Fusano. È un bell'uomo, sarà 3 metri. Lo so, infatti anche io voglio fare lo stesso lavoro, ci voglio mettere quel capo che non si è aspirato, aspirelato, capito? Quella molla, lo voglio eliminare completamente, non mi piace. A me invece non piace l'altro, se questa è di gusti, dai. Io, per dire, io mi corico e modulo coricato, qui da me mi va bene, è lungo che non tiri, e va benissimo quello lì, vabbè, ognuno c'ha, diciamo, tu non puoi farlo perché stai seduto lì. Vabbè, però diciamo che quello là è meglio di quello, a parte che questo è pesante, quando tu gli fai lo spessore dello stesso filo, è un bel pesante come filo, capito? Rimane pendolone. Quello che ho io la Luis è bello, bello lungo, che posso anche girare nel letto. Sa che 2 metri, 1 metro, non forse di più di 1 metro. No, di più. Sarà 2 metri, penso. Non ben lungo. Va bene comunque, a me va bene. Avanti la prima. E cappa. E la mia non è spiralata la prolunga. Infatti gira gira, glielo tolgo quello spiralato e gli metto quello, la prolunga direttamente senza essere spiralata, è lunga ronga intanto. Ma infatti come io faccio così adesso, domani mattina salgo da Fusano, mi compro il filo quello a 4, lo elimino tutto questo paradano e ci metto il filo quello normale, lo faccio un po' lunghetto e andrà bene. A 5 mi pare che ce l'ha, vabbè, l'elimino di filo. No, lo elimino già, è più bello, è peso, troppo pesante. Solo il casino, lo sai cos'è? Che se un domani vuoi vendere il microfono, il problema sta lì. Beh, infatti a me, per me i spiralati sono migliori, perché quando tiri a me non strappano, invece quei bici quando tiri strappano, quei spiralati sono a molla, capito? Lo so, vabbè, ma se te lo fai, diciamo, della lunghezza sua, va bene. Quello sì. Vedi tu fra, questa è la gusti. No, comunque questo MB più 4 va bene già, alla grande. L'avevo modificato la capsula e basta qua. Sì, come ho fatto io con il tagli, ho messo la capsula del coso, del Prox. Sì, andava, già va bene. Vai Natalia. E K, vabbè dai, io faccio quel retti che devo fare cosa, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti, anche a quelli che sono in ascolto. Dai. Ciao Natali, ci sentiamo, dai. Buona faccia. Ciao, ciao Caparino, le prossimine. Ciao Natali, buon cuore di buon tutto e ce la riascolta alle prossime. Vai Claudio. Ciao Natali, ciao. Ci ascoltiamo e tanto nello centrale c'è roba al forno, non lo girare, se no si brucia tutto. Cappa di roccio, brucia te, sempre non di schiena, c'è un freddo fuori, sono uscito a far uscire il cane, ma freddo qua. E aspetta domani, domani è ancora più freddo. E tu pigli l'aria di uscire, lo pugli. Pigli l'aria di uscire. Oggi sono ancora più alto, io sono di fronte, ti avete la voce rileva, di fronte. Però c'era, dopo il centro ecologico, però c'era fermata le tram, si gira lì, secondo cancello, lì, quello lì. sono io. Quindi è un bel attacco al giorno. No, ma guarda che qua c'è più freddo di oggi. E il maestro Marcello, quello dello pneumatico, sono di oggi. Quando uso ci sono 10 gradi, da te ce ne sono 8, infatti ho constatato che quando esco da casa per 10 ci sono 10 gradi, come arrivo a mia Sierra Secca Bassa ce ne sono 10, 12. E so, ti metti a sciare fra poco. Ecco, adesso così vedi, mi metto a sciare, e va bene. Ottimo per la truppa, ottimo per la truppa, mamma mia che cazzo, prossima settimana c'è il muratore di nuovo. Devono finire fra quella stanza grande che c'è il carrizio, per alimentare devono fare il bagno. Dove con la stanza là? E ho capito, vabbè, sempre soldi soldi ci vuole fare, ecco, non è da là. Come ti dici di là? Via, immaginate da quando sono qua, sono partito con una cifra, abitandoci e senza riferrafa, ho già speso più di 7.000 euro, più di 7.000 euro. Mi ha fatto notare mia figlia proprio stamattina. C'era un baiting, ho detto papà guarda, minchia che se non trovi abbascendi, vabbè pazienza, mi interessa, devo fare tutto, come dico io, sì lì devo terminarla fra, perché faccio una dipendenza, capito, adesso faccio fare il pavimento, il bagno, l'angolo cottura, le due lavatrici, le tolgo fuori, lascio solo la caldaia, le due lavatrici le tolgo fuori, che le metto sotto la, nel carrello all'altra parte, là, dove c'è, già lo sai. Cappa. Io sto utilizzando adesso quell'alimentatore famoso, e quello con l'avvento, la guarda, non fa nessun rumore. Allora ci ho fatto gli sfruttamenti, qua si sente la ventola dell'alimentatore, adesso l'ho avvicinato troppo. Vabbè, pazienza, già non fa niente, tanto la modulazione copre tutto. Vai Gianni. E quello stai usando fra, quello della... quello che si mette le cose nei computer. Scappa di positivo, quello lì, gli ho messo il termostato, questo quando scalda, che scalda un po' del dovuto quando arriva per dire 20 gradi, 23 gradi, massimo 25, entra in funzione del termostato, entra in funzione la ventola in automatico. La mia è silenziosa la ventola, non sente nulla, è proprio silenziosa, ma ok, dopo che si usa un po' lo faccio il rumore, ma io quando lo uso non si sente nulla. Ma, no, questo già si sentiva. Ma questo va bene. Poi c'ho l'altro, quello che avevi dato tu. Quello va bene. E quello lo sto usando lo stesso. Ma va bene anche qui. Poi c'ho il coso qua, l'orme, l'ho sempre inserito, stazionario, non ce ne so. Mi dai il vatti, mi dà tutto. Ma io ci metto anche per girare. Nel forno, no, io ce l'ho presente il box, c'è sempre quello uguale a quello tuo già, l'ho fatto mettere a posto, c'era una cassata, poi c'ho il diamond, quello frate mi hai messo sui cibi dentro, e poi c'ho il PS50 che mi alimenta i 2K, mentre questo qui 140 lo sto alimentando col box. Arrivo subito. E comunque, quello che ho fatto a Claudio è uscito bello l'alimentatore. Qual è quello di Claudio? Qual è? Quello uguale a me? Cappa. Quello è un signore alimentatore, quello lì. Non so, va benissimo. Ma cosa ci aveva quello di Claudio? La fesseria, lo stesso. Non c'è nessuno in grado di trovare la fesseria che... Vabbè. Io l'ho sistemato, bene, sta funzionando a proposito. Il mio sì. Andava, dai. Sì, anche con il Claudio va bene comunque. Hai visto solo, si spegneva. si spegneva, però forse era qualche falso contatto, poi si è ripreso e non l'ha più fatto. E magari qualche soldatura fredda. Tutto lì. Io qua c'ho un casino lo stesso, devo buttarci via questo mobile perché c'ho tutte le radio tutte incasinate, una sopra, devo fare una mensolina e mettere sulla mensola, non va bene questo mobiletto, troppo casino c'ho. Troppo piccolo, io te lo faccio come l'ho fatto io, a chiusura, lo chiudi e non si vede nulla. Ma tu è più grande di questo è piccolo, secondo come lo muovi, sta nascendo tutte le radio in terra, fai un danno, in occhi, ubi. No, io qua gli ho fatto un lavoretto, gli ho messo dietro a bloccare i ripiani, gli ho messo di quelle staffe a L, di quelle staffe L. No, vittate, devono che bloccare il ripiano, se poi il ripiano lo voglio spostare, basta che li svitto. E va bene lo stesso. Perché prima se ne andavano i ripiani, scendevano giù, venivano di tugato, e l'ho fatto. Perché dietro io non l'ho fatto mettere nessuna piastra di legno né niente. L'ho lasciato libero per respirare gli apparecchi quando li uso. E beh, è fatto bene. Ma no, questo è tutto aperto già come immobile, capito? Solo che non mi piace, anche se è nero, ma sono tutte sovrapposte le radio, capito? Non ci sta tutte, infatti adesso voglio fare una modifica, voglio mettere tutte le alimentatori tutti sotto e le radio le metto sopra, perché gli alimentatori sopra non mi piacciono a me. No, a me piacciono quelli con gli strumenti a me piacciono, fanno stazione, dai. Caccia così davanti, io li ho sparsi, per dire quelli degli apparecchi di sopra li ho messi sotto e viceversa, e così almeno non disturbo. Addirittura io voglio fare una cosa, voglio fare un sistema adesso, anche una mensolina sotto, e faccio tutta l'alimentazione tutta a parte, solo le radio, e i fili d'alimentazione non si vedono da nessuna parte. Sì, i miei non si vedono, i miei sono tutti dietro, non si vedono nulla. Se poi voglio li raccolgo tutti, ma io li ho lasciati liberi perché se devo spostare il mobile, siccome il mio c'ha le ruote, me lo avvicino al letto, capito, quando parlo. E quindi mi servono liberi che si allunghino, capito? Il medico posso vedere cosa riporta i nobili. Io faccio adesso una mascherina anteriore qua, gliela metto sotto, qua sotto copro tutto, metto il tappo proprio, lo copro in questo mobile, ci faccio tutti gli alimentatori tutto sotto e gli comando con gli interruttori senza inchinarmi né niente, capito? In questa pietra che faccio ci metto gli interruttori con la spietta di ogni apparecchio, di ogni alimentatore, così so quale sta funzionando e quale non sta funzionando. Aspettati. Non so cosa va, pigliami il bomber box. Così ho gli alimentatori tutti separati, la radio da una parte e gli alimentatori dall'altra. Perché non ne voglio più vicino, questi alimentatori non mi piacciono. Sono brutti da vedere. Voglio fare una cosa più carina, dai. Oh già. E dimmi. Ora gli ha fatto Franco il mio, detto tra. C'era un alimentatore della Daimo, cioè un alimentatore della Daimo, che ho pagato una barca di su, e si è bruciato praticamente, non accendeva più un casino, tutto insomma ci ha provato a fare, ma non era così, era tutto parlato di corto, ma tutto svoltato, ho usato il case della Daimo, che è bellissimo, con lo strumento, tutto, e dentro ci ha messo un switching e ha usato tutto quello che c'era dell'alimentatore, i piolini da dietro, che si agganciano lo strumento, tutto l'accensione, tutto sembra come era prima, capito? Ha modificato lì. Quanti ampere è qua? 35 o 40? 50 ampere, claro, lui. 50 ampere, infatti mi ha raggiunto. C'è la ventola, tutto, la ventola la puoi fare veloce, la puoi fare lenta, capisci? C'è un interruttore dietro, tutto è rimasto. Ma collegato con lui e non lavoro affatto. E ce l'ho di scorta, però l'altra volta ho provato un K, questa cosa me lo porta bene, non si è trovato mai un po' di bolla. Beh, ci credo. Sì, anche a me va aggiustato, io avevo quel Proxel fermo, che nessuno mi ha cavato piedi e sulla San Franco. E in un giorno me l'ha dato, ma l'ha tornato, ha detto che aveva una cazzata. Quello era il mio, che non mi ha fatto vedere. Ci rovinano quelle resistenze, perdono pressione, capito? Da 13,8 se ne scende a 10 la pressione. Devi cambiare quella resistenza. E va tutto bene. Ma ovvero, quando tu hai portato quell'alimentatore a riparare, manco a becchola, dammi retta. Ma non lo so. Io so che gli ha cambiato un pezzo, poi non so cosa dirti. Comunque non... Franco me l'ha risolto in un giorno. Me l'ha aggiustato, me l'ha ritornato. Ma prende col tuo mano. Sì. Guarda, lo sai cos'è, Clark? Che quando c'ho pazienza non so cosa fare, mi metto con la calma. Adesso mi ho ordinato la lente perché non ci vedo più da vicino. Ci vuole la lente per fare determinati lavori. E me le faccio io, capito? Non è un problema. Allora, se sai, non venisci io, mi racconta gli apparecchi. Invece ti aggiustare gli apparecchi, ti fai su. Ma un giorno mi hanno portato una radio, Clark, non accendeva, in corto, hanno invertito polarità. Ho preso, l'ho controllato, tutto quanto, ho cambiato un diodo, ho sbagliato una gazzata, si stava alla radio, dopo. Non ho fatto male a farlo, non fa la grazia di indossi, ma quando siamo tra di noi, una mano lava l'altra, e va bene, ma quando c'è di voi fa la pagata, così capito. E io perché ha... un amico che conosci anche tu, mica gli ho fatto pagare, gli ho cambiato la batteria a tampone, gli ho fatto tutto il lavoro, pulito l'HF e gli ho restituito, cioè, che si va a pagare. Ma infatti già è così. Ma io baracchini, va, ti giuro, un fratello, non so come banco di tu mi rimane. Invece il 140, il 50 avevo tappizzi, quello. Insegnato, imparato da ragazzo, mentre il 440 e il 430 sono molto più delicati, più meccanici, no? Non mi do, ma il 140 già solo per metterci le mani, sempre quelle piccolezze, per carità, no, non andiamo sulle parti tecniche, piccolezze, quelle cazzate che mi hanno insegnato, quelle già le faccio, però solo per mettere le mani, dai. Beh, io cambio anche il finale dal 140, mi sa tu. Io già lo so smontare, claro. Dopo il 71 pezzo, 680, io certe volte lo smonto tutto, lo apro, lo pulisco e lo richiudo. Pulisco la ventola, tutta sempre bella pulita, capito? È silenziosissimo, non fa nessun tipo di rumore, pesce bene anche. Ehi, va bene, che quello devi dare a me. Ehi, hai zitta, spera, tu che lo do questo. Quello non lo do a nessuno. Prendere, non me l'ha dato, figurati. No, vabbè, quelle sono radio più facili, fra, però ti ripeto, sempre nelle cosettine minime, sempre cazzatine, perché poi se vai nel tecnico devi avere strumentazione, devi avere cose, e devi sapere conoscere la componentistica, io non sono molto preparato in matematica, però quelle cazzatine già me le faccio su questa qui. Va bene, il connettore che non credo, come me il connettore della donna ci me l'ha fatto Gianfranco, in verità, perché è clippato, capito? C'ha due uscite clippate, il come chiude, me l'ha fatto lui il carretto, me l'ha portato ieri. Lo volevo ordinare perché li vendono già pronti, capito, i cavetti della Donis. Invece mi ha detto no, già ce l'ho io, te lo faccio io, ma ha fatto lui. Anche io manco, tanto non c'ho che patrice, poi non ne comprendo un accidente, sta fino a poco qui. Ci vuole l'attrezzatura adatta per farlo, non c'è niente da fare. E addirittura sul 680 posso pilotare anche l'MB più 4. Io ho l'MB più 5, fatto a Fabrizio, connettore Kenwood, alimentazione Kenwood, non ha manco batteria, vado un MG60, infatti io su un 430 uso quello, mi piace trovare un 60, tengo 2430, 140 e 757. Ma perché non te lo vendi uno qua? Io me l'avrei fatto in su di uno. No, non lo vendo perché poi non si trovano più pezzi, quindi me lo ok, ho capito, nuovo, funzionante, perfetto, mi ha lasciato a piedi già due volte il mio, già due volte, ma cazzate, però faccio i contatti, quindi siccome non c'è nessuno, io non sono capace, ho dovuto mandare al centro assistenza, ha quasi preso 80 euro per cambiare spinette, fare saldature, è un casino, no. Non lo tengo, non me la facevo da no, mi dice venerdì là, rimane lì uno a fianco all'altro, e ogni tanto lo accendo, faccio due passaggi, però non c'è l'MB, l'MC60, capito? C'è l'MB+5 che ha fatto Fabrizio. Vabbè, l'MB+5 è superiore all'MB+4 perché c'è la tonalità e te lo regoli come vuoi. Invece l'MB+4 solo per amplificazione. Io quando uso quello ce ne accorge nessuno, anzi giuro una volta se ne accorge. Ma tu c'è per appena la tonalità diversa, la cosa che non è l'MC60. Allora me l'ha regolata, ce l'avevo a 3, mi ho messo a 2 e pare un MC60. È una canonata, proprio una canonata, mi dice voi, comodo, anche dipende già che comodo. E quindi lo faccio andare col 4.30 che è sempre spento. Sì, dicono che i microfoni della ZG, ma per quello che costano vanno bene. Beh, adesso mi questo 48 lo vendo così com'è, è tutto bello, nuovo, di lusso alla grande, 200 euro che lo posso portare via. No, va là. 4.30 con l'MB+5 cambio. Aspetta, è superiore all'MC60. È una doppia amplificazione. C'è un mic gain, il processore attaccato, il mic gain è A1. A1 ce l'ho. L'MB+5 ce l'ho a 5, il Sony a 2. Una bombetta, va bene. Questo come sente? Una cannonata. È che a noi ci piace usare i microfoni quelli sui, però non hanno niente da invidiare, qualità prezzo, questi microfoni vanno bene. E questo non ha batteria, questo è alimentato dalla radio, l'avevo fatto ad hoc, è tutto fatto ad hoc, capito? Prende l'alimentazione diretta, non hai bisogno di una batteria oggi. No, va benissimo. Ti ascolto bene. E si conferma, vai Gianni. Certo, frega, cosa avevo ricevuto? Che copirchi? Gli ho fatti i copirchi, li ho portati tutti scarteggiati bene, verniciati, gli ho messo la mascherina della Colt davanti, cazzo, se lo vedi è bellissimo, tutto illuminato. Cosa ne ho messo? Le luci blu? No, le luci le ho lasciate le verdi, le sue, il 48 nasce già con la scheda illuminata nei pomitini, capito? Però adesso chi lo vuole 200 euro, di me non lo do. E beh già, la stanno vendendo 350 pure questa parete, c'ha tutto, è completo. Già lo so. Ah, non stanno più andando, prima ci spendevamo i soldi, ti ricordi qua quanto ci abbiamo speso? Io cazzo, uno l'ho preso 400 euro, un altro 350, un altro 450 addirittura. Ma poi, sì, sono belle cose, ma ho trovato a vedere, non me lo sono venduto, perché non lo usavo mai, in casa non lo avevo idratato, perché dopo che ho finito di viaggiare al lavoro, in macchina, non ne avevo più, l'ho portato a casa, ma pigliavo tutti gli spatteri in vera. Io me lo vendo, 200 euro, già, non me ne faccio niente, c'ho il 48, c'ho il 68, c'ho quell'altro omologato, cosa me ne costa? E poi in definitiva ne uso sempre una. Questo invece è il 430, l'altro con l'MC60, molto cambia. Allora a me a parità del radio mi piace più l'altro, più forte. Sì, addirittura. Gappa. Quindi vabbè, comunque sono tutti bene i microfoni, c'ho il 50, la 12, la 60, poi vabbè per i dazi non c'ho 4, stanno più 3, MB+5, il Savelta e l'MB+4. Adesso guarda la differenza da questa modulazione. Ma questa qua la modulazione cosa cambia? Niente, cosa cambia? Il giorno e la notte cambia. Diversa, eh. Io ho due diverse, ma stai scherzando. Questa è la radio tua, ami. È bella, va bene, va bene. C'è un piccolo qua. Ehi, 60 questo è sempre 60, non c'è niente da fare. Questa è 10 watt picchiata a 50. Allora, il 430 sta andando con 20 watt di portante, 40, quasi 50 modulati. Va bene, va benissimo. Vedo voi di più, non da me, lui è. Venne a fare i buchi, venne a fischio, mettiamo appena. Aspetta un attimo. Ecco qua, 20 watt, non mi stavo mancolando 20 watt. Vai già, riprendi. Vieni. Perché stai facendo così? Sei tutto saturo. Ma si usi che sei in FM? Come va adesso? Come va? Adesso già ci sei, va bene. Oh, sei basso il segnale. Quante watt era quella radio? Questa è pochina, da 4 watt, è omologata questa. 9, 10 sì, eh. Già va bene, però il segnale è calato. Già va bene, già va bene. Non si intese Chihuahua stasera, abbiate lasciato in giro, attento Chihuahua, Chihuahua, gappa gappa. Funziona bene. No, guarda te come arrivo. Fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passi 9,40 già. E anche qua adesso è attaccato. No! Ma cosa stai dicendo? Ci attacco io non ne attacco, Clark. Certo già, sei Santiago 9,10, sei 9,25. Guarda. Adesso è al minimo, mi. Se accendo un video. Mi aspetta la scelta. Cosa? Aspetta, Clara. Che sto mettendo in funzione quella pentolina piccola. A vedere. Fino a Gianni, cazzo, non segnalo, ma no, che non attacca giù. Quasi 9,30. Lascialo scaldare adesso. Perché cosa c'è? Valvolare. E lascialo scaldare, poi me lo dici. Certo, pensare che c'è Valerio. 10 volte mi ha detto di andare a prendermi il coso, l'amplificatore, l'audio, che ce l'avevo venduto io della IAES. L'avevo venduto io della IAES, un kilowatt, due valvole va di salario, cazzo, due bicchieri sono. Ma non me ne faccio niente, cazzo, anche un prezzo buono. 250 a me, ma non me ne faccio niente. Per attaccare il capo, 100 watt d'ingresso va, con 100 watt d'ingresso ne tira 7%, ma non me ne faccio nulla, che va. La luce è aumentata. Io lo so. Io, quando ho fatto il contratto qua, mi hanno dato un bonus di 300 euro da sfruttare in tutto l'anno. Adesso non so quanto è rimasto ancora sino a dicembre, però sto pagando molto poco perché c'ho questo bonus. Cambio, io fammi ti vedi che sei geniale, cazzo, non vedi ho che c'è un barracchino. Ma io fra, facci sentire, facci sognare. Ma non arriva come te sicuramente, prova a vedere, io fra. Guarda un po' adesso, qua. Prova. Parlate insieme già con Franco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, parlate insieme, attacca già. Guarda a vedere, là, vediamo un pochettino. Mi sembra più forte il tuo. Parlate assieme, cazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu sei 9, 25, hai già nel 9 più 30. Però sicuramente quello già ne c'è più potenza del tuo. È una bomba, se tu basta la 9,10 a 9,30. E vabbè, sicuramente c'ha più watt il suo. Non so, comunque le bombe forte Gianni qua. Attaccato allo stesso segnale di Roberto Quadrato. Cazzo Gianni, ci sono altri watt e ti rendi, minimo 4,0. Se quelli ne avevo conosco io, quello 300 li tira fuori. No già. Sì, 300. Il tubo aumenta. Arrivi quanto Roberto Quadratto, vabbè, Roberto mi aveva 9.30 con l'esilva, però ce l'ho più vicino là. Ma tu essendo giù nella vallata e minchia 9.30 arrivi. Dopo uscire liscio Gianni, senza amplificatore. E liscio sono con 4 watt mi fa. Claudio, io sto uscendo con 4 watt modulati, quanto ti sto arrivando? Uguali siete con 4 watt, uguali. Il problema è la potenza che c'è in più lui rispetto a te. Siete tutte e due 9 e 10 lisci, tutte e due specificati. Solo i Gianni che hanno aumentato, tu vai a 25 e va a 30. Figurati. Sì, vabbè. 5 punti eccola. Sì, non è nulla. Io non attacco, perché sennò la bulletta già a 120 mi è arrivata. Eccola. 120, in la malona, io già quasi 20. Il scaldabagno, lavatrice, questo, l'altro, un casino. Dice che è aumentata la luce. Ho cambiato gestore, tipo su Enegan, adesso occupa che ne di più. Bisogna prendere sempre il gestore principale, perché poi paghi di più perché hanno il passaggio. No, fra io ce l'ho nel, non mi ha funzionato. Anche la lavatrice scaldabagno. Sono due frigoriferi. Due grossi, due lavatrici, perché una è, l'abbiamo comprata per lavare la roba di filtro, che qua si può fare, carburante non si poteva fare. Due lavatrici, due frighi, il filo a pozzo, i due termoconvettori grandi, vabbè, che quelli li uso solo la mattina quando c'è freddo, la sera invece attacchiamo la caldaia. No, a me non mi arriva quella luce. Io qua con queste Enegan sono pagato, sto pagando un casino di soldi. Infatti voglio salire all'Enel e cambiare tutto. Non so. Però me la lavi già la roba del cane, ma no. E allora scusa, stavo parlando con lei, la dimmi. Ho detto la roba del cane dove la lavi a mano. Sì, allora quasi tutta a mano, sì. Con le copertine, sì, la lavo, la metto in una bacinella e poi la lavo a mano. Come facevo io a carburanti? No, qua ho preso una lavatrice. Ho comprato una lavatrice da 5 kg, pochi soldi, dalla, lì alla, al mercato delle Pulci. Nuova, imballata, però l'ho pagata poco, 200 euro. La va benissimo e la usiamo solo per lavare la roba di Filippo. Copertine, lenzuola, tutta la roba sua. Taglio tutto dentro pure la, il materassino, l'ho fatto nuovo. Ho portato 3D asciuttato, comunque adesso d'estate asciuga subito, però già quando c'aveva l'altro, e se no non fa già, non fa a fare la lavare a mano, lo trovo in ballo. No, il mio già ci sta nella lavatrice, l'ho messo lo stesso, l'ho lavato anch'io, però toglie delle specie di palline dall'interno, qualche cosa che hanno messo all'interno, le perde, capito, le palline. C'è quella, ho capito quali sono, ma il mio, forse è diverso, non lo so. Non fosse le prime lavate, boh, anche il mio faceva così, mi ha detto mia moglie, poi non l'ha fatto più. E vabbè, non va niente. Le metti, pulisci il filtrino, di cosa, già non le va niente. Gappa, non siete usciti fra, invece andava a Tintino, a Puglia Vento. Papà, aveva un freddo, non sono uscito da nessuna parte, no, qua. Freddo c'è maledizione, freddo. Non so quanti gradi ci sono fuori, non ho controllato, c'è il termometro attaccato sotto la veranda, ma non ho mai giocato a scelta, ma al minimo ho risolto 10 gradi. Ma dentro ne ho 20, 23, 24, già sta bene. E non c'è manco la caldaia attaccata. Ci sono due termoconvettori che stanno andando al minimo. E noi infatti volevo andare a Calamari, ma beve un mare, c'è un mare di tramontana allucinante. Mare brutto c'è, ma il tuo genio già da ieri così. E domani è la matessi goccia, domani piove. C'è un grecale, sono sceso a Platamona a fare un giro, guarda, io non ho mai visto una cosa del genere. Ehi, hanno quel freddo, piace stare a casa, fra, anche perché in giro, No, non sto scendendo da nessuna parte, sono a casa, a volte c'è la campagna, io sto per dare a mangiare il cane, poi me ne salgo perché non si può stare, è proprio freddo. Ma cos'è il cane in campagna? Adesso ce l'ho in campagna, ce l'ho. No, è sotto la tettoietta giù, no, dove c'è la veranda, sotto la veranda, con la sua cuccetta, bella, tutto chiuso. Ma no, cioè tranquillo lì, a casa troppo pelo fa, cazzo, casino. Già quando usciamo poche volte tutti assieme, però l'altra volta siamo andati fuori a cena, ho lasciato dietro, lo sentivo piangendo, ma non è abituato a stare da solo il mio. Non è anche il mio, però adesso vedo un po' di, lo porto a lavorare bene, tutto, gli metto la medicina e me lo porto su. Ah, poi col freddo che c'è, cazzo, no? Non sono un cane a stare fuori quelli. Vabbè, fate come volete. Filippo mi ha sopra la TV, mi peccato, lo voglio arrivare all'aria calda, c'è anche il freddo sopra la schiena, perché lui soffre un po' di acciacchi. Ah, poverino. Filippo dorme con me, lui. Se non voglio finire poi a fianco. No, non trovo la ultima, stai scherzando. Come ho preso, ho ordinato da internet il TV box qua. Tu che bello, lo attacca al televisore con la wifi, a internet, mi guardo YouTube, i video di pesca, i filmoni, è troppo bello, Ah, sì, ho già sentito, no, internet, no, te ne rampo di internet, non ho affittenuta, col telefonino, facciamo tutto col telefonino, il computer mio l'ho regalato a Roberto Quadrato dalla Lenovo, mi ha sistemato Luca, è tutto formattato, sistemato, pulito, fatto. Non ne ho io linea internet, solo il telefonino, basta. Senti, un po' che sei collegato alla USL, no? Alla DSL, e mi guardo i film su YouTube. Sì, io lo so, però ti ripeto, io no, non ne ho più nulla, lui. Sì, vabbè, l'ho pagato una cazzata da internet, 23 euro forse. Ma paghi l'abbonamento? Cosa già? Paghi un abbonamento? Ma non pago nulla, una DSL pago, lo collega alla DSL e mi guardi i film su YouTube. Video di pesca, video di caccia, video di elettronica, di tutto c'è. Cioè. Vabbè, io lo posso fare direttamente al computer. Ma io me lo guardo nel televisore, come lo guardi qua per darmi il computer? Dopo c'è il televisore, ma 58 pollici, 55, cioè. Il mio va su internet e televisore, è collegato, c'è la tastiera, tutto qua. Allora vai, su YouTube ti metti i video di pesca, lo sai, le cose a te le fanno vedere, un bel cosa di lusso. Già ho visto, che addirittura c'è anche il 3D, capito? Se sono in 3D li vedo anche in 3D. 4K al mio, l'ultima generazione. Ma è una cosa spettacolare, ragazzi, quando guardo le partite sembra in campo, che è una cosa bellissima. Vabbè, tutta alta definizione, cazzo. Minchia, una 4K è una cosa pazzesca, veramente, vabbè. Ve lo consiglio. Infine, non è 52, non è 55, 52 è Smart TV, è l'ultima generazione, ce l'ho 3 anni, neanche 2 anni. Nuovo, l'avevo preso da Ironix, manco male, se non mi toccava un picchio decoder. Vabbè, ha fatto bene. No, io per uno mi ho preso il decoder, l'altro vabbè c'era incorporato, ma uno ho dovuto cambiare il decoder, è nuovo, va bene. Ah, è fatto bene, ma cosa, già funziona lo stesso. Poi adesso però dal 30 novembre, da fine novembre, oscurano tutto. Avrai, se non hai il decoder, se non hai non lo vedi più, ancora si vede dai 1, dai 2, dai 3, dai movie e quelli lì, però fra un po', lasciano tutto in HD. Ora è tutto risintonizzato da capo. Ho risintonizzato già 4-5 volte io, perché ogni tanto mi sparisce qualche segnale, allora va sul menu. Si riprende in automatico quelli che mancano, me li rimette tutto in ordine, proprio le do, le digito, la digitura, sistemazione automatica dei canali, me li sintonizza in automatico, tutti li mette tutti lui in automatico. Sì. E ci sono quelli che ve lo fanno in automatico, ci sono quelli che ci deve andare a farlo, a cercare sul menu, vabbè. piace fare anche quello. Ascolto, io adesso ho letto su internet, adesso non so se so se qualche balla che hanno detto, dice che adesso c'è obbligatorio cambiare le gomme della macchina, mettere quelle invernali dal 15 di novembre se ti trovano senza gomme invernali, o almeno con le cartelle, devi avere o le gomme invernali o le cartelle, se hai le gomme invernali non c'è bisogno delle cartelle, devi averle a portata di mano. Dice che mettono multe in città da 350 a 600 euro e fuori sono ancora più alte le multe. Sì, sì, mi ha detto bene, mi hanno detto Marcello, io gli ho già cambiato le gomme, però non ho messo le termiche, perché a me le termiche non mi servono, per le gomme termiche entro il 15 novembre bisogna metterle. Chi però, stai attento, chi però va, esce da Sassari, chiaramente se tu fai la Sassari Cagliari e non hai le gomme termiche, allora sei passibile di contravenzione. Poi dentro città no, dentro città ci vogliono quelle quattro stagioni come quelle che ho messo io, estate inverno. Claudio, ma lì parla anche, sì, se ce l'hai quattro stagioni va bene, ma lì parla anche in città, perché dice le multe in città e parla anche delle multe fuori città, capito? Poi se è una fake non lo so, però io ho letto questa cosa, adesso bisogna vedere se le mie vanno bene, se non vanno bene, che già ne so. No, già, se sono gomme normali devi cambiare. Se vai fuori Sassari ti conviene dopo il 15 mettere quelle termiche, che sono quelle che praticamente non ci vogliono cartelle. Ok, se non vai fuori città metti le quattro stagioni, come ho fatto io, mi hanno detto il gommista. Ma tu vai fuori, io dico no, voglio andare a lui, io se vado fuori già c'ho l'altra macchina di mio genero che c'ha tutto, non ho problemi di andare con la mia. Ma allora metti le quattro stagioni e si è a posto, infatti ho messo quattro Michelin, quattro stagioni, dove appunto è più sicura la macchina per l'acqua, per le temperature stradali, eccetera, eccetera, capito? Ma ogni tanto nei cavalieri, vedi che quattro gomme cambiarle, cavolo, sono costi grossi. Nella mia poi, che c'ha le gomme larghe, è ancora bici. Già, 360 euro ho speso per la 147. Non è ciambare gomme resistente, no, non so, sono dei curti, però se la legge te lo impone, lui vivrà, se no è un casino. Tu fra ciambati? Franco, lo usa la giamba. Attento, Franco Franchi e Ciccio Grassia. Franco Franchi. Franco si è messo. Sto usando un altro apparecchio, come mi ascoltate? Sicuramente non mi sentite. Pare lucitofo. Ma come mi senti con questo? Pare Mario Giovanni Natura, il gatto quando vendi a Besso. ne vuoi Besso, no? Ne vuoi Besso. E a Londra, si è pagata. Apparecchio? Apparecchio omologato questo già. Sì, ma che apparecchio è? Che marca è? Questo è un Polmar. Ah, il Polmar. E io avevo il Polmar Nevada in macchina, quando avevo il 127 avevo il Polmar Nevada. Ci sono apparecchi omologati. Questo apparecchio prima cambiare il microfono solo, capito? Perché il microfono normale non rende niente. Cosa vuoi la radio Melegatti? Cosa hai detto? Melegatti, cosa hai detto? Vai, che ti andava meglio? Dal sole alla luna. Dal sole alla luna sono salito, hai visto? Aspettate l'inverno, si è passato. Guarda una goccia, no? Che ma spettacolare, questo è un bel tappo. Quel salone sì, e metto il coso cromato là avanti, bella, adesso stavo guardando nel cassetto, cercando la spugna, la spugnetta qua, stavo cercando la spugnetta, e gli ho detto, bello. Oi, questo va meglio, no? Allora, ma lo già devi qua, boh. Ma lascia perdere che va in grazia, non c'è una lunga, io compro un barante su garage, questo motore in garage, ma la siamo impegno mio. Che se baracchi ne vorrebbe già discutere la mondezza? No, non vorrebbe i baracchi, è abbassato. Mi si è già trattato. Adesso uso questi e buh, tanto, ce ne fai. Non cambia niente. Non credo niente qua dentro, non cambia niente. Volevo mettere quello, vabbè. Già, ne ripeti. Già, riprendo, vi saluto che Taggio se ne vuole scendere giù, dai, e vado a portare giù il cane. Dai, ci sentiamo, tu c'hai almeno quella fortuna che lo liberi e se ne va da solo. Sì, ho già fatto tutto, Gianni, ho già fatto tutto, sì. Ho finito di soffrire, però si è abituato anche quando piove, sta uscendo, un po' così rimane, fai bisogno subito, boom, se ne fuggi. Però ho fatto tutta la verità, uscito poco fa, mi hai già dormito. Gli ha aperto la porta, accendo la luce dal giardino, la piena del giardino, adesso vado in diretto, piscia, fa e poi rientra. Ciao Gian, piacere mi ha fatto, vai, ci aggiorniamo più tardi se coincide, vai fra. Ciao Gianni, buonasera, buon tutto e ce la riascoltare prossimine. E così Claudio. Allorando, mi domani il vostro. Una modifica del suo aiutagoglio che è fenomenale. Sì, sicuro. Le metto questo. Se fai quella modifica a quel Galaxy, esce una bomba. Sì, ce l'ho lineare, non sa che ce l'ho. Quindi non è un problema quello. Ce l'ho lineare. Ma glielo voglio mettere dentro perché stare con queste cose fuori a me mi si girano i bibbizi. Guarda che si può fare, metterlo dentro. Si può mettere dentro e fare pure un interruttore a parte, capito? Che lo puoi accendere e spegnere quando vuoi tu. Si può fare, sicuro che si può fare, Franco, sicuro, lo facciamo, gatto, mi sto guardando qua, ma è quello Roberto, no, che tra voi dovrei, questo è un amplificatore di segnale, 3 amplificatore VHF, addirittura, beh, 20 dB, RB20, no, dimmi tu, che mangio un po' quello. L'altro giorno stavo cercando nell'armadio, ho trovato spezzoni, cavi, microfoni, tutti buzzati, neanche me ne ricordavo, rosmetri, va. No, io già sono ordinato, faccio i cassetti qua, che avevo anche a Carbonazzi, già trovo tutto, però a volte cerchi una cosa, non ragazzi, capito? Beh, è così, poi quando non ti serve la trovi, te la trovi in mezzo. Allora, io. Adesso io qua ti faccio un lavoro, con gli alimentatori li metto tutti sotto, lo copro, poi gli metto l'interruttore e li comando da su, c'è da vedersi niente, capito? Copro proprio la zona di sotto con tutta l'alimentazione, e gli apparecchi da parte e gli alimentatori dall'altra. Si conferma, chi è che vuole entrare? Buongiorno! Allora, Franco, tutto a posto. Ehi, capo. Quindi mi ha sentito? Ciao, comunque, anche a Franco. Sì, so che di Franco ti ho sentito, sì, come no. Cavolo, benvenuta. Avanti, Franco. Ciao, Fra, buonasera, ben ascoltato. Ehi, capo. Ho provato così la vittima, capo, non mi sento, mi manchi davvero. No, ti ho sentito, so che di Franco. Però ho capito che la modulazione c'era. Mi fai giudito che sei 9.5 modulato, mi arrivi con questa antenna. È una recezione favolosa, veramente. Se capita che cambi antenna, non stare a mattonarti, usa il dedo, con il manto, le mantovine, metti una request, perché guarda, io mi adesso sto andando con poca potenza, ma la ricezione non scherza. Guarda, c'hai un segnale allucinante, una mappa va, non si manco nuovi, un pista G 95. Ehi capo, diciamo che l'ho salvata questa quest'anno, e l'ho tutta messa a posto, ricondizionata, e sono riuscito a salvarla, se no ce la stavo già buttando. No, ma qualcosa già ci abbiamo, anche per te mi fa giudizio. Qualcosa la mappa va, già ce l'ho io da recuperare, capito? Però se volete cambiare antenna, non state lì, non la trovo, prendete una J-Ball, capito? Non ha radiale, non ti crea problemi, la puoi mettere in qualsiasi punto, anche in terra la puoi mettere, sta tranquillo, magnifico, 8,50 metri l'antenna, 7 ottavi, già trasmette lo stesso. Io ce l'ho a 4 metri dal giardino, ma in 4, due dubbi, diciamo, uno attaccato a rumore e uno che esce, quindi alla fine sono 2 metri. Sì, no, già l'ho visto adesso, però questa è bella come antenna, diciamo che se la metto, come stai dicendo tu, come se la metto nel mio palo a buia. Però è meglio, a voglia, come dice mamma, a voglia. Franco, 9,10 liscio, tu sei 9,5 e per forza ti ho sentito. Ti ho sentito, sì. Avanti, Franco Franchi. Che antenna è quella che hai preso tu a Ocla? No, te l'avevo fatta vedere. Ma no. J-Paul, la 7 ottavi, la Smarttech. Smarttech JP, 7 ottavi d'onda. Ma è una gannonata, Ma rimetti che rende più della mappa da 5. Sì, 5 segnali. 5 punti S recupero. Da Giulio 9,10, 9,15. Capito? Da Roberto lo stesso, 9,30, 9,35. Ma anche voi, anche voi. Io se cumulo te ne tolgo 5 punti S. A te, a Franco. Quello già fatto anche stamattina. Franco, e tu da dove stai modulando? Da Sorso. Sorso città. E io quanto ti arrivo lì, Ofra? Tu sei tra l'8 e il 9. Già è buono, dai. Io sono una zona alta, del monte. Capo, io sono una zona più alta di Sorso. Dove abita Coso, Sacramento, Francesco? No, Francesco è proprio un'altra parte e rimane più in basso di me, lui. Lui è a Signori. Non l'ho più sentito, boh. Grande, non so se... non l'ho più visto io perché magari non sta uscendo neanche più. Kappa. Io sono senza vederlo. 3 anni fa mi sa che ci eravamo trovati lì a Città Mercato. Kappa. Sì, lui abita all'entrata di Signori laggiù, dalla parte del consorzio. Abita. Mentre io sono tutto dall'altra parte. Ho capito, ma l'antenna ancora c'era, mi sa di sì. Penso di sì. Sono da parecchio che non passo lì. Sono laggiù più inteso. So che c'aveva sempre quell'apparecchio, quel vecchio Pony, 23 canali. Guarda, ma l'antenna va là Sacramento, 90 mila. Io penso di qualcuno in più pure. Ma era più grande lui o Giuseppino? Giuseppino era morto. Ma era più grande Giuseppino, fra di Francesco. Sì. Non ho più sentito neanche io, qualche volta entrava così a salutare e arrivava anche bene, molto molto bene. Qua sicuramente mi arriva ancora meglio, perché sono davanti a Signori, capito? Non so. Avanti, Franco di Sorso. Capo. Vabbè, ma lui rimaneva in un fosso perché era da un'altra parte, in una zona più bassa era. Dal mio confronto è molto più basso. Allora, era quasi a livello di coso, come si chiama? Di Gavinuccio. Ah, lo stesso livello. Ma Gavinuccio che fino a fatto, non c'è più inteso. Magari sta lavorando e non ha tempo. Io vabbè, adesso piano piano già rientriamo tutti, io sono un po' più presente. Tanto sono a casa la sera, cosa fai? Di chi uno mette chiedi a chi va più tanti di chi si quasi di qua, poi adesso vediamo. Ma quando andiamo a incontrare questo amico, vediamo già mi dice cosa vuoi. Capo, lo sai, d'estate è tutto un altro diverso. La gente entra di meno e tutto. E così, avanti fra. E si conferma, l'inverno se ne sta al caldo in casa, fa la chiacchieratina, poi il TV e poi a letto. Infatti, se vai a giugno mi ha dato qualche cosa, è una meraviglia. E allora, magari anche ci puoi dire che pezzo di formaggio, arrosto. Ma che, siamo ultimi, ho già preparato tutto. Dopo scaldo appena appena, trovate 2 iri di salsiccia, quella grossa. Ho preso la caggiura, mi fa due pancettine, due capocollo e due pancettine in polla. Arrosto nel forno e poi un bel bicchiere di vino, anche due, tre, dai. Arrosto nel forno, catarrosto nel forno. Ora Giovanni, il catarrosto nel forno. Ma tu l'hai fatto, andava bene. Allora, ho già tolto notte c'erano le brucce, c'è ancora la braccia bella calda, dopo si discute un sopra una caduta dentro a Trento e vamos. Stanotte c'ho io cosce di pollo al forno con patate. Vabbè, non l'hai visto lo faccio questo io.